Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in una giornata in cui le borse sono deboli, ma non debolissime: meno 0,30% Milano, meno 0,70 Parigi, meno 0,40 Francoforte, meno 0,30 anche Londra. Dicevo, in una giornata del genere, i titoli oggi vi notiamo molti realizzi, vendite su Mediaset meno 4,90%, Telecom Italia meno 3,50%, Finmeccanica meno 3%, Buzzi Unice meno 2,70%, Mediobanca meno 1,75% come Steam Microelectronics, mentre è positiva Saipem del 3,10%, A2A del 2,90%, Pirelli del 2,80%, la Pop Milano del 2,5%, Campari del 2%, Dia Sorin dell'1,30% e Monte dei Paschi dell'1,30%. Dicevo, in questa giornata, oggi sul fronte lavoro si segnalano, e faranno parte del nostro primo approfondimento, due notizie. Da un lato il rapporto dell'OCSE sul lavoro italiano, e fa notare l'OCSE che la disoccupazione in Italia cresce più della media europea, non l'ammontare complessivo ma la crescita della disoccupazione. A fine maggio ha toccato infatti quota 12,2%, e ricordo che il dato di maggio sui disoccupati è il livello più alto sia da quando ci sono le serie mensili sulla disoccupazione, quindi dal 2004, sia da quando misuriamo la disoccupazione attraverso le serie trimestrali ogni tre mesi, e quindi dal 1977. Non si era mai avuta una disoccupazione al 12,6%. No, lo dico perché io mi rendo conto che anche questa settimana, come la settimana scorsa, la politica, Parlamento e purtroppo anche il governo si stiano occupando di tutt'altro, però noi restiamo sui temi che affliggono il paese, diciamolo così, perché un dato di disoccupazione che è ai massimi dal 1977 dovrebbe far riflettere tutti, non solo noi. Ma detto questo, la disoccupazione giovanile a fine 2012 è salita al 35,3%, questo lo sapevamo già. La cosa che fa notare l'OCSE è che dal 2000 al 2012 il numero di giovani con un contratto precario in questo paese è raddoppiato, il 53% nel 2012, e c'è un aumento preoccupante dei NEET, quindi not education, quelli che non studiano e non sono occupati, né studiano né lavorano. Sono i giovani nella fascia, nella terra di nessuno, diciamo. Noi abbiamo sotto i 25 anni il 21,4% di giovani che non studiano e non lavorano, contro una media europea decisamente più bassa. Solo Grecia e Turchia, tra i 34 paesi dell'OCSE, hanno una media più alta della nostra. Insomma, non mi sembrano dati. Di questi dati parleremo con il ministro al lavoro Giovannini, ma anche del pacchetto lavoro, perché insomma oggi lui ha incontrato le parti sociali e ha detto: o arriverà un'intesa tra le parti sociali, oppure il riferimento era ai contratti per l'Expo 2015, oppure vi sarà un intervento del governo, e le ha riconvocate per il 30 luglio e poi per il 29 agosto. Il leader della CGIL Camusso ha detto: pensiamo che di essere in grado noi di trovare delle soluzioni adatte. E anche Bonanni ha detto: faremo l'intesa con il governo, altrimenti si rischia il flop. Se il governo interviene c'è il rischio che faccia flop, e di questo parleremo. Parleremo anche di mercati, parleremo del mercato dell'auto, che oggi tocca il livello in Europa più basso dal 1996, cioè 1.175.363 vetture immatricolate nell'Europa, Europa 27, ed è appunto il dato più basso dal 96. Tra i paesi più grandi si segnala il calo più forte in Francia, scesa dell'8% le immatricolazioni, in Italia del 5%, la Spagna quasi invariata, meno 0,7%. L'unico paese, assieme alla Germania, in cui si continuano a immatricolare più auto, e quindi c'è un dato positivo, è la Gran Bretagna, più 13,5%. La quota Fiat in Europa, Fiat ha fatto meno 13,6%, e dicevo la quota Fiat, quindi peggio della media europea, la quota Fiat in Europa scende al 5,9% contro il 6,4% di un anno fa e il 6,8% del maggio di quest'anno. E poi anche la regione Piemonte, altro tema che tratteremo, dovrà pagare 36 milioni di euro a Dexia e Intesa San Paolo, due delle tre banche, l'altra era Merrill Lynch, con cui aveva costruito un insieme di derivati su un prestito obbligazionario da 1 miliardo 850 milioni di euro emesso nel 2006. Lo ha deciso la Corte di Londra, a cui le banche avevano fatto ricorso dopo che il Piemonte aveva interrotto il pagamento delle rate semestrali di ammortamento del prestito. Tra l'altro a giugno la regione aveva chiuso il contenzioso con la terza banca, Merrill Lynch, siglando un accordo, una transazione il cui valore non è stato rivelato, ma dovrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro. Ed è l'ennesimo capitolo di quello che è accaduto con gli apprendisti stregoni. Devo dire che, attenzione, gli apprendisti stregoni erano i funzionari delle regioni che andavano, o dei comuni che andavano a sottoscrivere strumenti derivati. Però, diciamo, chi gliel'ha piazzati questi strumenti derivati, e qui secondo me c'è una grossa responsabilità anche dei consulenti che loro hanno utilizzato, erano banche d'affari che avevano tutti gli interessi a piazzare questi strumenti, che si sono rivelati con rischi sottovalutati da chi li ha sottoscritti e hanno amplificato in questo caso le perdite. Io non ho nessun problema a dire che in molti casi queste banche d'affari, l'abbiamo detto già nel passato, si sono comportate così, come con un grosso conflitto di interessi. A mio avviso, tant'è che nel febbraio 2013 il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado quattro grandi banche straniere, Deutsche Bank, DEPFA Bank, UBS e JP Morgan, per aver truffato il comune che, secondo i giudici, non aveva le competenze adeguate per comprendere i contratti che avevano sottoscritto. A me ricordo un po', mi passino il termine, i banchieri sensibili, i pusher, cioè gli spacciatori. Tu vai e dici, no, ma guarda che questo fa bene, non ti preoccupare, non ci sono rischi, starai solo bene, e poi ti accorgi invece delle conseguenze devastanti. Tra l'altro i 36 milioni di euro devono essere pagati a, come Merrill Lynch ha chiuso, a Dexia Intesa San Paolo, 1 miliardo 850 milioni di euro il prestito obbligazionario emesso nel 2006. Bisognerà però dimostrare, poi sentiremo l'avvocato, che veramente la regione non sapesse quello che stava facendo, perché è chiaro che se tu sai quello che stai facendo, allora non c'è nessun tipo di atteggiamento così volto a venderti qualcosa, ma semplicemente ti sei preso un rischio improprio. E poi parleremo anche delle pensioni degli italiani, altro che i derivati, fra un po' diventano dei derivati. Perché? Perché oggi l'INPS ha diffuso il dato sulle pensioni italiane, insomma i livelli medi delle pensioni italiane sono obiettivamente allarmanti, e praticamente la spesa pensionistica è stata di 261 miliardi l'anno scorso, il 15,80% del PIL, e a 21.100 milioni le pensioni erogate, sia di natura previdenziale che assistenziale. Lo rivela appunto l'INPS, quasi la metà dei pensionati italiani, cioè circa 7.200.000 pensionati, su una cifra che appunto è di 15 milioni di pensionati, avevano 15.900.000 pensionati, avevano una pensione inferiore ai 1.000 euro al mese. Se si escludono i dipendenti pubblici, addirittura il 47% degli assegni, non i beneficiari che possono avere magari più di un assegno, ma il 47% degli assegni era sotto i 500 euro. Tra l'altro il risultato di competenza del nuovo INPS è stato negativo, il super INPS ha avuto nel 2012 un rosso di 9 miliardi di euro, il patrimonio netto è sceso da 41 a 22 miliardi. L'incorporazione dell'ente pensionistico dei lavoratori della pubblica amministrazione, già in rosso nel 2011 per 10 miliardi, ha fatto infatti scendere il patrimonio netto. Hanno infatti incorporato l'INPDAP, che era appunto il fondo pensione dei dipendenti della pubblica amministrazione. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Le altre notizie in breve. Andiamo rapidamente, perché dopo il bilancio di Citigroup di ieri, un utile da record superiore alle attese, oggi anche Goldman Sachs ha raddoppiato l'utile netto e continuano ad andare molto bene le banche d'affari americane. Grazie al trading nelle valute e nelle materie prime, la banca d'affari ha chiuso con un utile netto di 1 miliardo e 930 milioni contro i 960 milioni dei secondi tre mesi del 2012. In Germania l'indice sulle aspettative economiche, lo ZEV, è calato a luglio a sorpresa a 36,3 punti. In Spagna i tassi sono in rialzo nell'asta dei bond, dei bot a 6 e 12 mesi. La Grecia è oggi paralizzata a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dai due maggiori sindacati nel paese. Per quello che riguarda l'Italia invece, il nostro spread è stabile a 288 punti e per quello che riguarda il mese di maggio c'è stato un avanzo record nella nostra bilancia commerciale, nel 2012, più 11 miliardi, è il massimo dal 2003, mentre il mese di maggio ha visto un export fare più 0,6, l'import meno 0,9%. Ma dicevo, parliamo anche del dato più importante uscito oggi, il rapporto dell'OCSE, poi arriveremo a altre notizie in breve, lo dico perché vorrei parlare direttamente con il ministro Giovannini, che oggi ha incontrato anche le parti sociali per quello che riguarda i contratti modello Expo, e su questo ha chiesto alle parti sociali di trovare un accordo, se no interverrà il governo. Però vorrei partire dalla fotografia di insieme e quindi parlare appunto di quello che è più scuro che chiaro, il chiaro scuro dell'OCSE, relativo sia alla disoccupazione generale ma anche e soprattutto alla disoccupazione giovanile in questo paese. Dicevamo, la disoccupazione in Italia cresce più della media europea a fine maggio 12,2%. Io lo voglio ripetere perché vorrei che lo capisse anche la politica, non il governo, ma la politica. È il dato peggiore da quando esistono le serie storiche nel doppio fronte, serie storiche mensili, ossia dal 2004 sulla disoccupazione, ma anche le serie storiche trimestrali, quindi 1977. La disoccupazione giovanile in Italia è al 35,3% a fine anno. L'altra cosa che mi ha impressionato è che quasi il 53% dei giovani ha un lavoro precario, ossia il doppio rispetto al 2000. E siamo in collegamento con il ministro appunto al lavoro, Enrico Giovannini. Buonasera, ministro. Buonasera. Dunque, poi arriviamo all'incontro suo con le parti sociali. Ma mi dica una cosa, insomma, i dati dell'OCSE segnalano, oltre a quello che già sapevamo, massimo storico sulle serie mensili e sulle serie trimestrali, dicono non che noi abbiamo la disoccupazione più alta della media europea, ma che sta crescendo con un ritmo più forte della media europea, ministro. Effettivamente quello che è accaduto nei mesi scorsi, cioè per lungo tempo grazie agli ammortizzatori sociali, pensiamo ai mesi che vanno da metà del 2011, quando la nuova recessione è cominciata, fino all'estate del 2012, gli ammortizzatori sociali avevano ridotto il numero di occupati che perdevano il lavoro. In questo senso il tasso di disoccupazione era rimasto relativamente basso. Nel frattempo però molte persone che non erano attive sul mercato del lavoro, soprattutto giovani e donne nel mezzogiorno, vista la situazione familiare sempre più difficile, si sono riversate in massa per cercare sul mercato del lavoro per cercare lavoro. Quindi il nostro tasso di disoccupazione è cresciuto anche perché molti inattivi si sono messi a cercare lavoro nonostante la difficoltà nel trovarlo. In questo senso abbiamo avuto un ritardo rispetto ad altri paesi e la cosa più importante da guardare in questo momento è come stanno andando i tassi di occupazione, che quindi rapportano gli occupati alla popolazione, perché se non riusciamo a fronteggiare, come stiamo cercando di fare con il decreto varato qualche giorno fa, lo smottamento, la riduzione dell'occupazione, avremmo problemi anche da questo lato. Quindi lei dice, da un lato la disoccupazione aumenta, allora io devo chiedere una cosa metodologica, i disoccupati, la disoccupazione misura il numero di persone che non lavorano tra quelle che vorrebbero lavorare, mentre l'occupazione prende tutti quelli che potrebbero, non vorrebbero, potrebbero lavorare e va a vedere quanti lavorano. È chiaro che è diverso perché ci possono essere donne ma anche uomini, o giovani che per vari motivi non vogliono lavorare, quindi non sono disoccupati ma non sono occupati. Allora lei dice molti di quelli che non erano disoccupati ma non erano occupati, diciamo non gli interessava cercare lavoro per vari motivi, hanno iniziato a cercarlo e questo fa aumentare il dato sulla disoccupazione. E invece sull'occupazione il dato mostra che cosa, Giovannini, però? Perché se questo fino ad ottobre del 2012 una sostanziale tenuta, dopodiché con il proseguimento della crisi alcune imprese hanno dovuto certamente licenziare, quindi noi dobbiamo riuscire, oltre che a ridurre il tasso di disoccupazione, a reimpiegare il prima possibile le persone che hanno perso lavoro, e in questo senso vanno alcuni degli interventi che abbiamo avviato proprio con il decreto. Allora, su questo arriveremo, mentre vorrei andare avanti sul rapporto OCSE, Ministro, perché dice, attenzione, in Italia quasi 53% dei giovani hanno un lavoro precario, ma la cosa impressionante è che la quota è raddoppiata rispetto al 2000, quando erano il 26%. Ora, non abbiamo necessariamente un atteggiamento ideologico sul lavoro precario, uno può essere precario perché ha appena iniziato un lavoro, o comunque meglio un lavoro precario che non lavoro, ma non è un po' troppo alta questa, non tanto la percentuale, ma la crescita di questa percentuale? Certamente sì, e deriva da due fattori fondamentali. Avere un lavoro temporaneo, precario, all'inizio della propria carriera per qualche mese, per un paio d'anni, è normale, avviene ovunque. Ma invece restare nello stato di precario per vari anni, lo dimostrarono proprio i dati dell'Istat che pubblicammo quando ero presidente dell'Istat un anno fa, invece incidono sulle prospettive a lungo termine delle persone. Quindi è il restare precari per troppo tempo che condiziona in modo negativo la carriera delle persone. D'altra parte, in un momento di incertezza e di crisi economica come quella che abbiamo, è chiaro che molte imprese non si sentono di assumere oggi contratti a tempo indeterminato e quindi puntano al tempo determinato. Le do solo un dato. Nel primo trimestre del 2013 in Italia sono stati siglati 2.440.000 contratti individuali, quasi 2 milioni e mezzo, arrotondiamo un attimo. Di questi 1.600.000 sono contratti a tempo determinato e circa 400.000 sono a tempo indeterminato. In altre parole, noi dobbiamo riuscire, attraverso il superamento della crisi e quindi il rilancio dell'economia, a ridare prospettive di medio e lungo termine alle persone, soprattutto ai giovani, ed è per questo che abbiamo creato questo incentivo che riguarda soprattutto i giovani, per trasformazioni di lavoro a tempo determinato che diventino a tempo indeterminato, ma non una semplice sostituzione, altrimenti sarebbero soldi sprecati, ma questa incentivo viene dato soltanto se l'impresa aumenta complessivamente il numero dei lavoratori. Tanto per farle un esempio, se un'impresa assume un nuovo contratto a tempo indeterminato ha un incentivo per 18 mesi, azzeramento di contributi, se invece trasforma un lavoro determinato in uno a tempo indeterminato ha un contributo di 12 mesi, ma in più deve assumere comunque un'altra persona per avere un aumento occupazionale. Questo è chiaro, era nel disegno di legge sul lavoro, però mi dico una cosa, quindi 53% di giovani precari sono troppi? Sono certamente troppi, ma è chiaro, lei pensi di essere un imprenditore? No, io capisco benissimo le motivazioni delle imprese, ne parliamo molte volte, a me interessa sapere se poi il dato complessivo viene valutato come eccessivo. L'altra cosa che volevo commentare con lei però è anche questo aumento, lo dice l'Ocse, non lo dico io, preoccupante dei giovani che non studiano e non lavorano, siamo al 21,5%, solo Grecia e Turchia fanno peggio, ma qui cosa c'è? Il nero sotto, quindi noi non vediamo alcuni giovani che lavorano in maniera non regolare, non regolarizzati, oppure noi abbiamo i giovani più disorientati d'Europa che non riescono né a lavorare né a intraprendere un ciclo di studi, di formazione. Ci sono tutti e due i fenomeni, certamente c'è una parte di nero che non viene colta da questi dati ma viene colta da altri dati e quindi alcuni giovani che fanno magari lavoretti non sono contati come occupati e questo lo sappiamo benissimo. Ma abbiamo anche tante persone che in attesa forse del lavoro ideale della vita oppure perché per fortuna hanno alle spalle delle famiglie che possono sostenerli, non si attivano sufficientemente per cercare lavoro e per trovarlo. Avere 2,2 milioni di NEET, cioè di giovani che non studiano e non lavorano, questo è il valore assoluto che corrisponde a quella percentuale che lei diceva, è veramente un enorme problema perché noi perdiamo capitale umano che abbiamo faticosamente costruito attraverso le scuole. Ed è per questo che, scusi se torno di nuovo al decreto lavoro, abbiamo stanziato soprattutto nel Mezzogiorno quasi 300 milioni di euro per tirocini formativi, per stimolare l'autoimprenditorialità, per progetti nel non profit per giovani, proprio per aumentare la loro attivazione, perché di nuovo gli studi ci mostrano che è molto facile per un giovane che finisce gli studi o l'università di entrare in questo mondo dei NEET e poi uscirne con grande difficoltà solo dopo vari anni. Questa è una perdita di capitale umano che magari non contempliamo come costo economico, ma che in realtà sosteniamo. Io ho ancora due domande per lei. L'articolo 18, perché l'Ocse dice, attenzione, la riforma Fornero dovrebbe migliorare la crescita della produttività e la creazione dei posti di lavoro nel futuro grazie al nuovo articolo 18 che riduce la possibilità di reintegro in caso di licenziamento, rendendo le procedure di risoluzione più rapide e prevedibili. Oddio, non tutti la pensano così, ma insomma, quindi lei non lo toccherà quella parte dell'articolo 18 della riforma Fornero? No, devo dire che nessuno conta di toccarlo, neanche abbiamo ricevuto sollecitazioni in questa direzione, ma abbiamo toccato alcune procedure che rinviavano nel tempo l'eventuale contenzioso. Per esempio, se una delle due parti non si presentava al tentativo di conciliazione non succedeva nulla. Adesso invece è importante presentarsi perché altrimenti il giudice terrà conto di questo aspetto. Però vorrei ricordare da questo punto di vista che nessuna riforma del mercato del lavoro, per quanto perfetta, riesce a superare i problemi di una crisi come quella che stiamo affrontando. In questo senso, anche strumenti immaginati per un'economia normale, è chiaro che segnano il passo nel momento in cui siamo nella peggiore crisi della storia italiana. Ministro Giovannini, visto che lei è stato anche presidente dell'Istat, per inciso scrive un ascoltatore, ma perché se uno è obbligato, questo è vero, se uno è obbligato ad andare a scuola fino a 16 anni, la statistica sui giovani disoccupati parte dai 15 fino ai 24, non è strano, è una mia curiosità, guardi, banalmente, non so se lei mi può aiutare su questo. È un consenso europeo 15-24? Esatto. In realtà non è solo europeo, lo usa l'Ocse, lo usano le Nazioni Unite, tutti quanti. Noi naturalmente abbiamo anche un tasso di disoccupazione elevato da 25 a 29, mentre poi tende in parte a ridursi, ed è proprio per questo che il combinato disposto dei due incentivi che abbiamo fatto, uno per i disoccupati e uno per i giovani che non hanno mai avuto un lavoro, riesce a coprire ambedue le fasce di età, ed è per questo siamo stati criticati, no? Che abbiamo messo gli incentivi soltanto per i giovani. In realtà non è così, perché c'è un secondo incentivo che riguarda tutti i disoccupati, e il combinato disposto, come si dice, cioè l'insieme di questi due incentivi, copre tutta la popolazione da 18 fino a 50 anni e oltre. Ultima domanda riguarda il suo incontro con i sindacati interlocutorio. Oggi lei ha detto alle parti sociali trovate voi un'intesa tra voi, oppure entro metà settembre, oppure il governo interverrà, il Parlamento e il governo interverranno. E lei ha riconvocato le parti sociali per il 30 luglio e il 29 agosto. Tra l'altro il segretario della CGIL Camusso ha detto: ma no, sono fiduciosa che sapremo trovare una soluzione adatta. E la stessa cosa ha detto il segretario della CISL Bonanni. Due rapidissime domande per concludere. La prima: è convinto che insomma ce la faranno i sindacati, secondo lei? Io sono convinto che ce la faranno, anche perché oggi non sono solo i sindacati naturalmente al tavolo, ma ci sono anche Confindustria, le imprese per l'Italia. Nonostante il fatto che nei giorni scorsi nelle audizioni parlamentari le parti datoriali avessero proposto delle scorciatoie, chiamiamole così, su un tipo particolare di contratto, quello per il contratto a termine, oggi sono state tutte concordi nel dire che per l'Expo servono diversi contratti, compreso l'apprendistato e così via, e quindi la complessità di questo articolato serie di strumenti non può essere ridotta a una norma di legge. Dopodiché abbiamo detto altrettanto chiaramente che se entro il 15 settembre non ci dovesse essere questo tipo di accordo, appunto il governo e il Parlamento interverranno direttamente nell'ambito probabilmente di un decreto che riguarderà tutte le varie attività legate all'Expo. E per concludere mi tolgo una curiosità, chiudiamo su quello su cui siamo partiti, e cioè nel giorno in cui l'OCSE ci dice che abbiamo raddoppiato il numero di precari, lei l'ha definito molto alto come numero. In realtà quello che voi state proponendo sull'Expo, giusto o sbagliato che sia, non mi interessa, ognuno ha le sue idee, non è un'ulteriore forma di flessibilità, ossia precarizzazione? Beh, sarebbe interessante sapere cosa noi abbiamo in testa, perché oggi no, perché abbiamo letto tutto, contratti flessibili, infatti per quello... Esattamente, allora è chiaro che nel momento in cui le previsioni di alcuni studi mostrano come intorno all'Expo gireranno 200.000 occupati per un periodo di preparazione e poi nei sei mesi in cui l'Expo si concentra, pensare che l'Expo automaticamente produca anche il regime 200.000 occupati mi sembra veramente frutto della fantasia. Cioè lei dice è impensabile che tutti questi 200.000 resteranno poi a lavorare, sarebbe... una volta e mezzo la fabbrica della Fiat, certo. D'altra parte bisognerebbe evitare che le rigidità inducano le imprese a usare più orari delle persone che già lavorano, perché a questo punto l'effetto netto sull'occupazione sarebbe minimo. Ecco perché dobbiamo immaginare, soprattutto se l'Expo sarà quello che ci aspettiamo, cioè uno stimolo anche per la crescita di medio termine del nostro paese, pensiamo al turismo, pensiamo all'agroindustriale e così via, dobbiamo immaginare strumenti di flessibilità per quei soggetti che saranno interessati da attività effettivamente limitate nel tempo. Se arrivano 20 milioni di turisti è chiaro che il turismo avrà un momento di picco straordinario, ma poi cercare attraverso strumenti contrattuali che per esempio aumentano la formazione nei confronti dei giovani, quindi usano quei sei mesi o quell'anno per formare giovani migliori per il lavoro, ecco, per questi abbiamo bisogno di strumenti che incentivino la conversione a tempo indeterminato, la prospettiva di medio termine. Come al solito non abbiamo una sola impresa in Italia, non abbiamo un solo settore in Italia, abbiamo bisogno di una molteplicità di strumenti, perché tutto il resto è veramente semplificare. Su questo lei è chiarissimo. Nel ringraziarla le chiedo, ma non si sente un po' frustrato nel momento in cui eravate riusciti a mettere il DL lavoro, con il DL lavoro, insomma il lavoro al centro del dibattito politico? È due settimane, la settimana scorsa ci siamo occupati di cronaca giudiziaria, oggi, da ieri che continuiamo tra, diciamo, il giallo kazako e il pasticciaccio delle parole inaccettabili di Calderoli. Cioè, non ha la preoccupazione che la politica torni a occuparsi di altro? Ma la cronaca forse si occupa di questo, però per fortuna il Parlamento in questi giorni e questi uffici, anche durante il weekend, si sono occupati di discutere i 500 emendamenti che abbiamo ricevuto sul decreto lavoro. Quindi, al di là della superficie mediatica, in realtà il Parlamento continua a lavorare, i ministeri continuano a lavorare sui temi che interessano le persone. In questo senso i tempi di conversione del decreto resteranno stretti e sono convinto che entro la pausa estiva del Parlamento avremo il decreto convertito, così che all'inizio di settembre le imprese che vorranno prendere decisioni sugli incentivi, sulle assunzioni, sui tirocini formativi, eccetera, potranno farlo sulla base di una legislazione consolidata. Noi glielo auguriamo, non voglio essere frainteso, sia il giallo kazako che le dichiarazioni così, insomma, che si commentano da sole di Calderoli sono due cose importanti, non sto dicendo che non ci occupiamo di nulla, però eravamo rimasti a un governo e un Parlamento tutti concentrati su come far uscire questo paese dalle secche in cui è finito. Grazie al Grazie ministro Enrico Giovannini, adesso con un po' di ritardo, appena appena, il meteo e la pubblicità. E poi gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Nice again. 17:44 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa, poi il mercato dell'auto e poi questa vicenda che ci riporta la cronaca di anni fa, la condanna della Regione Piemonte a pagare per il contratto sottoscritto sui derivati. Allora, attenzione, lo dico subito perché molti hanno scritto: ma insomma, è giusto che paghi, hanno firmato, paga. È giusto, faccio solo notare che il Tribunale ha deciso nel caso del Comune di Milano che quando il Comune non era in grado di valutare i rischi presenti in questi contratti, e infatti ha condannato le banche, sembra quasi parlare di circonvenzione di incapace, però insomma è ovvio che c'è una simmetria informativa tra chi il derivato te lo propone, ne conosce tutti i meccanismi e i rischi, ed è ovvio che in base a come te lo spiega tu puoi o meno sottoscriverlo. È un po' come certi medicinali, no? Foglietti bugiardino, scritto piccolissimo, impossibile da leggere, certi contratti finanziari che vengono proposti, no? In cui tutte le clausole più rischiose finiscono in corpo 10. Allora, vediamo di capirci, perché poi a me quello che interessa è che i 36 milioni di euro che dovrà pagare la Regione Piemonte sono 36 milioni di euro dei cittadini piemontesi e italiani in generale, Fosse una cosa tra privati, beh. Per il resto, ancora vedo molti messaggi sui tagli agli statali, alle pensioni, ho capito. Critica alla Fornero. Ancora molti dicono che i giovani sono così disoccupati e non studiano né lavorano perché non hanno voglia. Ma attenzione ai luoghi comuni, ieri abbiamo fatto una puntata contro i luoghi comuni, non lo so. Ci saranno sicuramente i fannulloni anche tra i giovani, ci sono anche tra gli adulti, perché non dovrebbero esserci lì. Però dire che la percentuale è così alta che abbiamo di giovani che non studiano e non lavorano è solo dovuto al fatto che sono tutti fannulloni, mi sembra un po' un ragionamento da bar. C'è qualcosa che non funziona nel nostro mercato del lavoro, e faccio notare che insomma l'Italia spende 500 milioni di euro l'anno in servizi all'impiego. Sapete quante ne spende il governo tedesco, che ha una disoccupazione che è la metà della nostra? 5 miliardi. Eccola. E funzionano. Comunque, adesso la borsa, dicevo, faremo solo un accenno perché sto facendo saltare tutti gli spazi di questo programma. E adesso devo dare il traffico: meno 0,43% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,40% Francoforte, meno 0,30% Londra. Queste le chiusure. L'America perde uno 0,40%. Oggi realizzi su Mediaset, che molto aveva corso ieri, meno 5,60%. C'è attesa anche per la sentenza della Consulta, ma adesso arriveremo. Male Telecom Italia, -3,40%, di nuovo uno stop allo stop and go sullo scorporo della rete. Bene invece A2A +3,25%. Di questo parliamo tra un minuto. Focus Economia. Allora, diciamo della borsa e saluto Livia Zancaner di Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera Livia. Buonasera. Dunque, qualcuno ti sta cercando, ma non siamo noi. Allora, Mediaset perde il 5,60%, e qui vediamo di capire cosa va male, anche Telecom. Ora, giustamente, alcuni ascoltatori dicono, ma insomma, quando aveva deciso di scorporare la rete perdeva, adesso che blocca lo scorporo perde sempre. Partiamo da Mediaset, ma soprattutto Telecom. Sì, allora Mediaset ricordiamo che ha corso molto ieri, ha corso molto negli ultimi mesi, da inizio anno ha guadagnato il 108% e dai minimi di metà novembre quasi il 200%, quindi diciamo che le azioni risentono delle prese di beneficio in un giorno in cui il settore europeo ha perso l'1,5%, quindi sostanzialmente si tratta di vendite generalizzate sul comparto. Per quanto riguarda Telecom, allora il CDA straordinario di ieri sera ha, come dicevi tu, congelato la decisione di scorporare la rete in base alla proposta della Agcom, quindi dell'autorità, di ridurre le tariffe. Questa riduzione delle tariffe, se venisse effettivamente applicata, comporterebbe, avrebbe un impatto negativo sui conti di Telecom, e anche per quello che il titolo oggi perde. Comunque vi sono tutte delle ripercussioni legate al mancato scorporo e a questa decisione dell'Agcom che fanno sì che la borsa abbia accolto con sfavore questa notizia. Sì, sulle perplessità soprattutto. Andiamo avanti invece su Fiat, poi parleremo dei dati sulle matricolazioni, c'è poco da capire, -1%, mentre Buzioni c'è un perdito del 2,60%, Finmeccanica il 2,5%. Qui c'è un taglio del voto sul debito e anche una prospettiva negativa operata dall'agenzia di rating Fitch. Sì, assolutamente sì, oggi come hai detto tu Fitch ha ridotto il giudizio con delle previsioni negative, soprattutto perché per i programmati miglioramenti sotto il profilo finanziario in termini di taglio del debito e di generazione di cassa nel breve periodo, che saranno, secondo l'agenzia di rating, difficilmente raggiunte, ed è per questo che è stato deciso questo taglio. Ancora, per quello che riguarda invece i titoli che sono andati male, cito anche Luxottica -1,60%, Mediobanca -1,5%, Prismian -1,20%, come Intesa San Paolo, Fiat -1%, Unicredit -0,80%, Salvatore Ferragamo -0,60%, fronte opposto A2A +3,25%, Saipem +3,20%, Pirelli +2,90%, Campari +2,60%, Pop Milano +2%, Monte dei Paschi +1,40%. Allora, anche qui Saipem da un lato e A2A. Allora, per quanto riguarda Saipem, oggi il mercato in particolare, viste alcuni report di analisti sul mercato, scommette su una possibile divisione del gruppo, un cosiddetto spezzatino o break up all'inglese, con la cessione, quindi o spin-off, quindi scorporo delle attività di perforazione. Questo infatti permetterebbe di valorizzare le attività di ingegneria e costruzioni che attualmente sono invece penalizzate. Gli analisti si aspettano infatti per il 2013 una perdita operativa da questo parte del business di Saipem di circa 500 milioni di euro rispetto a un utile di 1 miliardo registrato nel 2011 e nel 2012. Per quanto riguarda A2A, non ci sono motivi particolari che hanno sostenuto il titolo. Bisogna ricordare che nei giorni scorsi le utility sono state particolarmente penalizzate, soprattutto la scorsa settimana a livello europeo, vista la decisione del governo spagnolo, e quindi poi di conseguenza si sono mosse anche gli altri concorrenti del settore. Andiamo verso la conclusione con Pirelli, bene oggi in borsa, +2,90%, e qui ci sono dati di mercato, ma anche Monte dei Paschi, visto che ieri la fondazione ha detto, insomma, che si aprirà, finisce un'epoca in tutti i sensi per il Monte dei Paschi, la fondazione non sarà solo più l'espressione, diciamo, della senesità, ma e quindi verrà annullato il tetto del 4% per gli analisti. Allora, per gli azionisti, magari per gli analisti. Per gli azionisti. Allora, da un lato Monte dei Paschi, ma in primo luogo Pirelli. Sì, allora Pirelli ha beneficiato dei dati di mercato di giugno pubblicati dalla concorrente francese Michelin, dati che hanno evidenziato un trend positivo sia per le auto sia per i camion, con l'eccezione del Nord America. A beneficiare di questi dati è stata quindi soprattutto la società italiana, vista la maggiore esposizione nei confronti dell'America Latina, che è un mercato che continua a crescere e che rappresenta il 34% circa del fatturato del gruppo. Per quanto riguarda il Monte dei Paschi, gli analisti, quindi il mercato, ha giudicato positivamente la decisione della fondazione, quindi di votare a favore dell'annullamento del tetto del 4% al possesso di azioni, poiché questa decisione creerebbe condizioni più favorevoli all'ingresso di nuovi soci e quindi al recupero di parte dei capitali necessari al rimborso dei monti bond. Chiudiamo con i migliori e peggiori in assoluto, cito però anche Campari più 2,60, Pop Milano più 2% e Diasorin più 1%, i migliori e peggiori in assoluto. Bioera più 8,40, Ceramiche Ricchetti più 6,40 e invece Metecnimon meno 21,20, Seat Pagine Gialle meno 5,60%. C'è però anche CIR, e CIR vuol dire la finanziaria che controlla il gruppo Espresso, più 6,20%. Sì, CIR, ricordiamo, sta andando verso la risoluzione, la vicenda del lodo Mondadori, e il mercato inizia a scommettere su come il gruppo utilizzerà questi circa 400 milioni di euro. Secondo alcuni queste risorse potrebbero essere utilizzate dalla società per distribuire un dividendo straordinario, fare un'operazione di buyback, quindi di acquisto di azioni proprie, mentre sono ritenuti improbabili degli investimenti significativi. Il mercato quindi apprezza queste ipotesi che stanno circolando attualmente. Grazie Livia Zancaner, Radio Cori sulle 24 ore. Grazie a voi. Dopo il GR cercheremo appunto di capire perché la Regione Piemonte dovrà pagare 36 milioni di euro al gruppo Dexia e al gruppo Intesa San Paolo, due delle tre banche, l'altra era Merrill Lynch, con cui aveva costruito un insieme di strumenti derivati su un prestito obbligazionario da 1,850 miliardi emesso nel 2000. E 6, il Piemonte aveva interrotto il pagamento delle rate semestrali di ammortamento, però la Corte di Londra gli ha dato torto, ma cerchiamo anche di capire che cosa succede a questo mercato dell'auto europeo, che è tornato su livelli in Europa, impressionanti. Si sono immatricolate nel maggio, a giugno di quest'anno, lo stesso numero di auto che si immatricolarono nel 1996, 1.175.000 vetture. Uno può anche dire, vabbè, nel 96 si circolava con l'auto, non è un dramma, non può sempre crescere il parco auto, per carità, ma è un dato. Ne parliamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Alle 18:08 riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, prima di arrivare a questa vicenda, che è l'ennesima vicenda che vede coinvolto un ente locale, in questo caso la Regione Piemonte, in una vicenda di derivati, ricordo che furono i casi in precedenza anche del Comune di Milano, di cui ci occupammo a suo tempo, ma vorrei arrivare al mercato, casi analoghi appunto Bari e Milano. Vorrei arrivare al mercato dell'auto di oggi, e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Paolo Malagodi, che insegna economia dei trasporti all'Università di Ancona. Buonasera. Buonasera Barisoni. È uno dei massimi esperti di mercato dell'auto. La chiamo perché oggi il dato è sul mercato europeo, non sull'Italia. Meno 6,3% il mercato a giugno. il numero di immatricolazioni fatte è 1.175.000 auto contro 1.250.000 di un anno fa, e è il livello più basso dal 1996. La cosa interessante, perché è ovvio, insomma, con la disoccupazione a record, i consumi in calo, il PIL che cala, è difficile che uno abbia voglia di comprarsi l'auto. La cosa più interessante però è vedere come si muovono i vari paesi, perché al di là della Gran Bretagna più 13% e della Germania, oddio, anche se la Germania ha avuto un calo del 5%, ed è la Gran Bretagna il secondo mercato europeo dell'auto, cioè al di là della Gran Bretagna tutti i paesi dell'area euro hanno avuto flessioni. Me le racconta, per favore? Beh, quello che lei dice è la risultante di una situazione di recessione che per il mercato europeo globale è in corso con qualche altalenante andamento dal 2008 e, come diceva lei, i giornali domani lo diranno, siamo ai minimi dal 1996. E il dato è che i paesi che non adottano l'euro mantengono la loro vivacità, tra questi la Danimarca, la Finlandia, il Regno Unito, e poi vi sono alcuni paesi dell'area dei nuovi membri UE che hanno ancora una domanda di prima motorizzazione, tra questi la Slovenia, la Polonia, la Lituania, l'Estonia, l'Ungheria, e poi c'è questo... Ma lì perché c'è un parco auto anche forse più vecchio? Un parco auto ancora ridotto rispetto alle percentuali di motorizzazione che nell'Europa ricca sono di 500 auto ogni 1000 abitanti. In Italia anche di più, ma vi sono questi paesi dove la quota di motorizzazione è ancora bassa. Per il resto la situazione di demotorizzazione, oltre che di decremento del mercato, è molto netta. L'Italia, lei lo diceva, è in buona compagnia, Francia e anche Germania quest'anno, e però sul dato europeo pesa molto anche per questa bassa quota del mercato italiano un calo di Fiat assai superiore al dato medio europeo, che, come lei ricordava prima, è del 6,3%, compresi i paesi EFTA, mentre per il gruppo Fiat è del 13,6%. E qui spiace notare che al di là della relativa tenuta del brand Fiat, che ha un calo del meno 6%, sono due marchi che dovrebbero essere importanti in un mercato di qualità, quello europeo. Alfa Romeo è almeno 33% e consolida un semestre in cui è almeno 34%. In netto calo anche Lancia, sia pure col trattino Chrysler, perché sappiamo che su alcuni mercati i prodotti Lancia vengono indicati come Chrysler, che sta a significare che vi è una scarsa attenzione di un mercato europeo, sia pure di più modeste dimensioni che non per gli anni precedenti, a un gruppo che fa poca innovazione sul prodotto, e i marchi suoi di maggior richiamo, che sono Alfa e Lancia, lo denunciano direttamente. Lei guarda le prime 10 vetture europee, non c'è una vettura Fiat, ogni tanto compare la Panda, ma ci sono Golf, ci sono Polo, ci sono Clio, ci sono 208, ci sono Fiesta, Focus, c'è tutta una serie di costruttori che continua a investire, sia pure in un mercato che strutturalmente è in crisi, con una capacità produttiva che certamente è eccedente la domanda di questi periodi, rispetto a costruttori, e Fiat tra questi, che non investono. Fiat non ha rinnovato il prodotto nel segmento B, la cui punto scompare praticamente nel mercato europeo, è del tutto insufficiente la sua offerta nel segmento C rispetto a una Golf, rispetto ad altre vetture, perché la Bravo è una vettura di poche unità assieme alla Delta e alla Giulietta. Questa è la situazione di Fiat, per cui ha ragione Marchionne a dire: non è interessante investire in un mercato in calo, però vi sono costruttori, e lei lo diceva prima, come il gruppo Volkswagen, che aumentano la loro quota. Ormai la quota Volkswagen è 24,4 nel mese, 24,8 nel semestre, il che vuol dire che una vettura su quattro di tutta l'area europea è del gruppo Volkswagen. Allora, se questa è la realtà di un gruppo come Volkswagen, e anche altri portano avanti delle buone quote, lo stesso gruppo Peugeot, Renault tramite il contributo di Dacia, anche Ford ha un buon recupero, è un po' la logica di Marchionne, io la somiglio un po' a quella di Esopo nella favola della volpe e l'uva, che diceva non dum immatura est, cioè tanto non è matura, inutile che sì, il problema è capire se poi insomma il mercato non è interessante, anche perché tu, lo dico in riferito a Fiat come gruppo, hai modelli che non vendono, sono un po' brutale, o sì, il mercato è interessante anche se tu hai rinnovato i modelli. Lei dice è vero che il mercato è basso ed è in contrazione, su questo non ci sono dubbi, certo, però è anche vero che all'interno di questa torta che si restringe ci sono alcuni produttori di auto della stessa fascia di Fiat che vanno bene, quindi c'è probabilmente sia un mercato che si restringe, ma c'è anche il fatto che se tu non ci credi comunque la tua fetta personale si restringe ancora più del mercato, che è quello che sta capitando a Fiat, diciamocela tutta, perché la quota è scesa al 5,9%, le immatricolazioni sono calate del 13,5%. Assolutamente, ma la logica di Marchionne è molto netta, cioè la rimando, o chi vorrà approfondire, al sito che vede i dati del mercato russo. Perché lo dico? Perché il mercato russo, pur non essendo tra i dati che noi commentiamo oggi, è un mercato da 2 milioni e mezzo ormai di vetture, anch'esso in calo, però vi sono gruppi come Renault Autovaz che fa oltre il 30% del mercato con dei buoni volumi. Quando lei va a vedere Fiat, e qui i russi la capiscono forse più di noi, l'ha denominato come Chrysler Group, in cui ha i marchi Fiat, Chrysler, Jeep e Dodge, quindi loro dicono non c'è più Fiat, c'è una Chrysler, la cui logica è di entrare in un mercato con quello russo, come quello russo, con bassissimi volumi, perché è una delle carenze di Marchionne non aver fatto l'accordo con Autovaz, che ha fatto Chargon, e quindi è una situazione di questo tipo. Allora Marchionne dice è inutile puntare sul mercato europeo, è inutile pensare a investire su modelli di grande volume, quali appunto che richiedono investimenti per centinaia di milioni, io ho la mia strategia, Chrysler è una riserva buona oggi di espansione di un mercato ricco, Fiat e le fabbriche europee seguiranno e nel tempo si vedrà, da qui mi sembra che la logica sia inoppugnabile, però noi abbiamo questa situazione di fatto, Fiat cala sul mercato europeo in misura significativa e non si espande in mercati quali quello russo, quale quello cinese. Guardi Malagodi, io non ho niente da aggiungere, perché è un tema che abbiamo già toccato, e quindi pur dando ragione a Marchionne nella fotografia del mercato, bisogna stare attenti a non generare poi profezie che si autoavverano, perché se tu continui a mettere poca innovazione, pochi modelli sul mercato, la tua quota continuerà a calare e avrai sempre più ragione nel dire non mi conviene stare su questo mercato. Grazie a Paolo Malagodi. Confermato. Grazie Paolo Malagodi. Adesso c'è il traffico e poi la vicenda dei derivati della regione Piemonte. Ripeto, quando una regione deve pagare 36 milioni di euro a Dexia e a Intesa San Paolo, sono soldi dei cittadini. Dico subito, prima che partano le polemiche, che questi contratti derivati su un prestito obbligazionario da 1 miliardo e 850 milioni emesso nel 2006 furono firmati dall'allora governatrice del Piemonte Mercedes Bresso, quindi non dall'attuale governatore Roberto Cotta, il quale invece ha bloccato il pagamento a giugno nel 2012, scusatemi, delle rate semestrali, e ha chiuso intanto un contenzioso sempre per questa vicenda con la banca d'affari americana Merrill Lynch. Ne parliamo dopo il traffico. Sono 800 gli enti locali italiani che hanno stipulato contratti derivati nel 2006, nel 2005, nel 2007. A settembre dell'anno scorso l'esposizione degli enti locali italiani nei confronti di questi contratti, che adesso non posso spiegare, ma per dirla tutta, sono contratti che nascono come protezione, come polizza assicurativa sull'investimento, ma se usati male amplificano le perdite oltre che proteggere, oltre che amplificare i guadagni. Comunque a settembre dell'anno scorso le esposizioni su contratti derivati degli enti locali italiani valevano 11 miliardi di euro. Se avessero chiuso queste posizioni, cioè avessero venduto, come si direbbe in gergo, a settembre, la perdita maturata dagli enti locali sarebbe ammontata a 6 miliardi 200 milioni, un po' come avviene con un investimento azionario: finché tu non vendi non hai la perdita, è solo virtuale. Però questo vuol dire che si rischia un buco nel buco, perché se improvvisamente questi contratti vengono portati a chiusura c'è una perdita di 6 miliardi, che vuol dire una mezza legge finanziaria. Nel caso specifico noi abbiamo delle vicende passate su questo. Perché ci furono già i tribunali in campo sui derivati, e mi riferisco da un lato al Comune di Milano e dall'altro alla Procura di Bari. Perché? Perché nel febbraio 2013 il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado quattro grandi banche straniere, Deutsche Bank, DEPFA Bank, UBS e JP Morgan, per avere truffato il Comune. Cioè, secondo i giudici, il Comune non aveva le competenze adeguate per valutare i contratti, la rischiosità dei contratti che aveva sottoscritto. Nel 2010 i magistrati di Bari avevano chiesto ai banchieri di Merrill Lynch che i contratti comprendessero anche un allegato in lingua italiana con l'indicazione esplicita del valore equo alla data di sottoscrizione e la descrizione analitica degli elementi di base nei quali è scomponibile il portafoglio azionario, e cioè di spiegare in italiano quali sono gli elementi che compongono questo portafoglio del derivato e il valore alla data di sottoscrizione. Questo nell'ambito di un'inchiesta in cui si ipotizzava il reato di truffa aggravata ai danni della regione Puglia. La cosa interessante, però, adesso veniamo alla vicenda del Piemonte, perché nel caso della regione Puglia, l'ex assessore regionale al bilancio Rocco Palese, quello che firmò i derivati a suo tempo, si giustificò dicendo che la lingua inglese era molto complessa e lui non la conosceva così bene, non aveva capito tutti i vari passaggi. Devo dire che questa linea è stata tenuta anche in questo caso. Perché lo dico? Perché nel maggio del 2012 la regione Piemonte, che nel comprare con, al tempo era Mercedes Bresso governatrice, giunta di centrosinistra, emette un'obbligazione a 30 anni per un valore di 1.850 milioni di euro, con rimborso a scadenza in soluzione unica. Per questo tipo di obbligazioni, allora erano possibili, la legge imponeva la costituzione di fondi o di swap di ammortamento, quindi la regione Piemonte sottoscrive i derivati per accantonare periodicamente le somme necessarie al rimborso. Si chiamano amortizing swap in termine tecnico, e anche per ripararsi dalle dinamiche del tasso, il tasso può variare, interest rate swaps, e per proteggere le banche dal rischio Italia, CDS, credit default swaps. Allora, le tre banche coinvolte erano Merrill Lynch, Intesa San Paolo e Dexia. A maggio dell'anno scorso la giunta, guidata a questo punto da Roberto Cotta, decide di non pagare più le rate semestrali alle tre banche. Nel frattempo, a giugno di quest'anno, la regione chiude il contenzioso con Merrill Lynch, un accordo di transazione, non sappiamo quanto ha pagato, sembra che valga intorno ai 20 milioni di euro. E ancora, la regione Piemonte appunto transa con Merrill Lynch, ma oggi la corte britannica, la corte londinese, ha condannato la regione Piemonte, il giudice Henry Eder. Il Piemonte non ha replicato in tempo alle richieste delle banche di pagare le rate di rimborso e ha definito la corte britannica vaghe e oscure le accuse mosse dalla regione Piemonte alle banche. Quale è stata una delle linee di difesa più forti? È quella di, diciamo, la non conoscenza della lingua, se abbiamo ben capito. Ora, io, va bene tutto, però limitarsi a dire che uno non conosceva bene l'inglese è forse una linea di difesa un po' debole. Vorrei però la conferma dall'avvocato Tommaso Iaquinta, che è stato avvocato della Regione Piemonte proprio nella vicenda dei derivati. Buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, è vero che voi di fronte alla Corte londinese avete detto che il direttore finanziario della Regione Piemonte non conosceva abbastanza l'inglese per comprendere appieno i contratti che stava firmando? Uno, cioè, non dovrebbe firmare cose che non capisce, lo sa anche mia nonna. Prego. Certo. No, diciamo che sicuramente questa è una tesi che è stata sostenuta, ma in via del tutto subordinata. Le argomentazioni sono state ben altre e ampiamente sviluppate. Il tema quindi della non conoscenza della lingua inglese è semplicemente un aspetto che va ad avvalorare il profilo della capacity, si dice in gergo tecnico, e cioè della piena conoscenza e dire, legittimazione a sottoscrivere un contratto i cui contenuti non si apprendono, non si conoscono a pieno. Questo è un po' il profilo. Quindi è stato enfatizzato questo profilo di carattere semantico connesso alla lingua, ma le devo dire che è stato questo un argomento sì sviluppato, ma in via del tutto sussidiaria dai nostri. Cioè, non era non mi parli in avvocatese, non era la linea forte della difesa? Assolutamente no, assolutamente okay. No. Perché poco fa l'assessore al bilancio della Regione Piemonte ha detto 10 minuti fa, Gilberto Picchetto, sì, la regione non deve pagare, la decisione di oggi è solo interlocutoria, stiamo valutando se impugnare la decisione della Corte di Londra. Ma mi dica una cosa, insomma, da quello che lei ha visto, adesso è chiaro che lei difende la regione Piemonte, ma quanto si può sostenere Perché io capisco benissimo, è come vendere un farmaco, dicevo, quando tutto è scritto in piccolissimo, o certi contratti finanziari in cui alcuni elementi di reversibilità o di rischio sono scritti in maniera molto molto piccola e non esposti. Non ne esce bene chi te li propone. Però, voglio dire, non lo stavano proponendo all'anziana sotto casa il derivato, lo stavano proponendo alla Regione Piemonte. Ora, uno dovrebbe avere anche delle competenze interne o se no chiamare dei consulenti, chiedo. Il tema è proprio questo, che i consulenti erano quelli che poi alla fine hanno venduto il prodotto e sono diventati delle controparti. Cioè la grande misrappresentation di questa faccenda è che con le banche si è avviato un rapporto di advisory, salvo poi concludere e arrivare al closing e scoprire che erano delle controparti. Ora qui nessuno vuole accusare le banche di aver truffato o non truffato la regione, è un tema semplicemente connesso a una non evidenza di costi, come dire, impliciti relativi alla sottoscrizione degli swap, della struttura derivata. Perché voi sostenete che ci sono stati 58, dov'è che l'ho persa, commissioni occulte per 54 milioni di euro? Sì, è il fair value negativo all'atto della sottoscrizione. Cioè voi dite, noi pensavamo che queste banche ci facessero da consulenti, invece erano, diciamo, giocavano per la controparte. Sono diventati delle controparti, il fair value negativo è un costo a tutti gli effetti, perché vuol dire che nel momento in cui io ho firmato lo swap non era pari in gergo tecnico, quindi non aveva un fair value zero. Quindi io ho firmato un documento, un contratto, che già all'atto della mia sottoscrizione incamerava una perdita potenziale di 54 milioni. Questo perché erano le commissioni occulte. Esatto. Mi scusi, però, adesso, quanto occulta era? Cioè, la commissione quanto occulta può essere? Ci sarà stato scritto nel contratto, non voglio difendere le banche, ma insomma da qualche parte ci sarà stato scritto o no? No. Assolutamente no, tant'è che bisogna fare un lavoro molto, come dire, articolato, che si chiama unbundling in gergo tecnico, cioè bisogna smontare le sovrastrutture, tirare fuori i prezzi e capire quali fossero effettivamente i prezzi a quella data. E non è una roba che sicuramente nemmeno l'area finanza di una regione come la regione Piemonte avrebbe potuto fare ai tempi, insomma, a questo punto. Ma allora perché gli asimmetria informativa, sì, ma allora tu non vai, cioè io non vado a comprare, perché a meno che non sia obbligato, ma insomma non vado a comprare qualcosa di cui non capisco il funzionamento. È vero che molte volte uno entra in un negozio e mi spiegano un televisore, non è che capisca le componentistiche di un televisore, ma sa, il rischio lì è molto basso. Cioè lei che idea si è fatto, che tutti avessero sottovalutato anche in regione lo strumento? Ma l'idea che uno può farsi è sostanzialmente che ci sia stato un eccessivo affidamento nei confronti di alcuni soggetti che evidentemente non erano lì a fare semplicemente gli advisor, questo secondo me è un po' il punto. Poi quanto questo sia giusto o non giusto è tutto da vedere, lo decideranno i giudici. C'è sul tavolo e di fronte agli occhi di tutti un fatto che Merrill Lynch, che non è proprio una banchetta, come dire, di provincia, ha ritenuto opportuno chiudere una transazione i cui profili di sostanza, come lei dice, sono coperti da riservatezze, così è, ma è una transazione che evidentemente tiene conto di una serie di cose. Quindi benvenuti nel mondo reale, cioè, perché anche noi è successo di andare in banca e uno ti propone un prodotto finanziario, poi non ti spiega tutto, e anche lì c'è asimmetria informativa. A questo punto impugnerete la cosa? Assolutamente sì, credo proprio di sì. Quindi la Regione Piemonte va ad impugnare. Va bene, grazie all'avvocato Tommaso Iaquinta. Noi continueremo a raccontare questi casi, perché sono soldi dei cittadini italiani, oltre che degli abitanti della Regione Piemonte, che poi magari deve fare addizionali regionali. Ne abbiamo parlato ieri, c'è una grossa inchiesta del Sole 24 Ore oggi sul giornale sulle regioni che più hanno aumentato le addizionali regionali. Noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Torniamo domani alle 17. Radio 24. La passione si sente.